vuole diventare famoso per poter smettere di lavorare. Nessuno presta il suo amplificatore, nessuno vuole collaborare. Qualcuno valuta la tua presenza scenica mentre stai cantando, ma nessuno si ferma a sentire né vuole ascoltare quello che stai dicendo. Qualcuno vuole fare le interviste anche se poi non sa cosa rispondere, ed è lo stesso qualcuno che a quanto pare non ha niente da dire.